chiuso. Cosa ti è arrivato? C'è roba, mi è arrivata roba che devo ancora caricare le batterie, provare se funziona, eccetera. Li devo ancora testare. E vabbè, mi sceglierò un luogo non troppo lontano che non sia zona interdetta. Non andare all'aeroporto. No, ma ci sono i pazzi che lo fanno, ci sono i pazzi che volano sugli aeroporti o per vedere il decollo degli aerei, per vedere atterrare e decollare gli elicotteri d'emergenza, c'è gente matta. Uno l'hanno beccato che per riprendere l'aereo da sopra, questo era non so quanti centinaia o 1000 metri o 2000 metri, voleva filmare l'aereo che partiva da sopra, cioè da sopra l'aereo, cioè molto più in alto, no? E mi pare, ma sono multe da coso, tipo 40.000 euro di multa che ti devi vendere l'appartamento per pagarla. Ma lì in zona rossa è vietatissimo, è proprio una follia, è come che tu fossi un terrorista, capito, che va in zona aeroporto a far danni. Metti che il drone finisca nelle turbine dell'aereo, si sfascia la turbina, si blocca o scoppia o piglia fuoco. Poi altro che assicurazione già. Se li usano in guerra adesso quei droni, li usano per pescare, per portarsi la rete al largo, li stanno usando per un bel coso. Prima usavano i motoscafi, quelli a modelli girati, i motoscafi, telecomandati. Adesso stanno usando i droni, dall'alto, lontano la roba, e poi la lancio. Sì, infatti ero interessato a capire quanto può tirar su un drone, però certo se tu usi quei piombi da spiaggia tipo 100 grammi, quelli da lancio, da come si chiama, surf casting, io non so se riesci a sollevarlo, credo 100 grammi ancora sì, con fatica, se sono meno, ho visto la prova di un drone economico, no? E li vendono anche da AliExpress. Da Amazon, però Amazon te li fanno pagare 10 volte tanto. E 100 grammi li tirava sua fatica, ma se li mettevi pochi grammi in più non si alzava, capito? Non è roba da carico. Invece ho visto dei filmati già di Ucraina, o penso sia Ucraina, e tizi portando i proiettili d'artiglieria, penso innescati, perché c'era un circuitino anche attaccato dietro e un antennino tipo di polo, no? Quindi col telecomando guidi, o addirittura col visore, quello che ti metti tipo occhiali. Cioè col drone pilotano, sembrano droni, sai, quelli autocostruiti, no? Tipo modellismo. Portano questo proiettile d'artiglieria, presumo innescato, a destinazione e poi con l'altro telecomando lo fanno esplodere, oppure esplode per contatto, per impatto, non lo so già. Ma esplode anche il drone, non lo molla? No, non penso, a meno che non gli abbiano fatto un sistema di sgancio. Però se l'obiettivo è buono vale la pena. Tanto quanto vuoi che costi un auto costruito, manifattura cinese, lì, compresi cinesi. È solo il proiettile d'artiglieria, ho detto, pesa, già. Non è che lo puoi alzare con quattro elichette da due soldi. Quello non so niente di quello, già. Ho visto dei video su YouTube, penso che sia Ucraina, E il tizio militare, che aveva il visore addirittura, il visore. Se tu, praticamente lui, siccome non lo vedeva a vista, no? E usava il visore per vedere quello che vedeva il drone, capito? Poi vabbè, i droni militari veri e propri sono grandi quasi quanto aerei, quanto caccia, no? Che possono portare bombe e non solo. Quella è un'altra cosa però. E poi ci saranno quelli meno potenti, quelli più potenti, come tutte le cose. Ci sono quelli che magari hanno anche lo scarico, perché il motoscafo, per dire, quello da pesca, che lo usi per portare l'esca, c'è una specie di ribaltabile che praticamente premendo un pulsante si abbassa e cade giù il piombo e poi lo fa andare via. Eia, ecco, quello stavo pensando, ma se tu hai il peso il peso da pesca, no? Tu lo porti a largo col drone, però come fai a sganciarlo? Ti devi studiare lo stesso un circuitino aggiuntivo, un servo servomeccanismo che, pilotato da un tuo telecomando, ti apre la pinza, no, quello che tiene il piombo, e te lo fa calare in acqua. Forse meglio dal motoscafo, meglio, gli fai una piccola sede, una piccola conca, in modo che il peso sia dentro, no? E poi come arrivi a fondo corsa col filo, con la lenza, si sfila da solo dalla sede, il motoscafo esce dritto, no? Lo fai tornare indietro e il piombo viene depositato in acqua, capito? E si aggancia l'acqua. Fai la gara con un motoscafo, guarda come tira, chissà che pesce è. In quel caso la stanno usando bene i sistemi, ma non sono sportivi, io preferisco al lancio. Stanno usando i barchini, quelli che vanno col vento, tu li metti praticamente, lo leghi a uno spago lungo di quella sagola per fare pesca, vedi quella lì e lo fai andare col vento, tu stai sulla battigia mentre che cammina il marchino con tutti gli ami tipo palamito là, tutti gli ami con l'esca, e se ci sono pesci predatori vanno e mangiano. E sai cos'è già? Poi metti che usi davvero un drone, lì Platamona è tutto zona rossa per via degli ultraleggeri. Quindi guai se uno solleva un drone anche a un metro da terra, per dire, per portargli la lenza, e cominciano ad arrivare le forze dell'ordine, per carità. E comunque guarda, li ho visti di questa cosa, e non solo di quella, anche degli aeromodelli, degli elicotteri, dice che con queste regolamentazioni restrittive stanno facendo passare la voglia a tutti di portare avanti questo hobby, capito già. Dice, fino a 10 anni fa potevi usare un aereo di quelli visti a Piazza dei Segni, a jet, un elicottero di quelli grandi con motore a scoppio, farlo volare dove volevi tu senza assicurazione. Adesso mille regolamenti. Ah, poi quel sito che ti dà il QR code e di flight, una volta che ti registri, anche con la registrazione gratuita, ti fa vedere tutte le zone interdette, quelle regolamentate, no? Ti compaiono i colori rossi, in modo da sapere se nel punto in cui vai lo puoi far volare o no. Buono, ti avvisa. Sì, perché poi le sanzioni sono pesanti, poi per cosa? Per un giocattolo. Guarda che regolamentazioni stupide, no? Tu hai un drone che costa 12 euro, anche lo trovi da AliExpress, tu dici un giocattolo, eppure se ha la videocamera devi applicare il codice QR. Se non ha la videocamera, lo stesso identico drone, non devi applicare il codice QR perché è considerato giocattolo. E che regolamento cretino è? È lo stesso drone, lo stesso peso, la stessa potenzialità d'offesa che non ha, perché è talmente leggero che galleggia sull'acqua, se lo poggi, capito già. Alla fine, allora, cosa serve per essere schedati questo codice QR, codice operatore? E non è per il drone in sé, ma è per la telecamera, capito? Per la possibilità di fare riprese. Contenti loro. Quindi le riprese in effetti ribaghi. E questa assicurazione dove va pagata? In che modalità? Allora, il sito, c'è il sito tipo Cover Drone, oppure Drone Zine, c'è scritto, Drone Zine, o quella, forse la rivista, no, sto sbagliando, vabbè, comunque, io l'ho fatta con Cover Drone, ho messo il preventivo, solo responsabilità civile, perché puoi assicurare anche i tuoi mezzi in caso di perdita e rottura, ma ho messo solo responsabilità civile. Compilato tutti i campi e il preventivo era 18,40 euro, perché dice chi ti ha messo al corrente del nostro sito, e tu metti, che ne so, Dronex SRL, che è il loro, come dire, partner commerciale, e che ne so, anziché 19,90 paghi 18,40 per dire all'anno, però puoi usare tutti i droni che vuoi. Naturalmente deve essere, se invece tu vuoi un drone superiore ai 249, 250 grammi, cioè dai 250 in su di peso, ci vuole il patentino. Il patentino si chiama A1A3, non mi chiedere cos'è perché non ho manco guardato. Comunque serve per guidare i droni pesanti, più pesanti di 250 grammi. E comunque senza assicurazione, come si guidavano prima, era una responsabilità. Io ho visto uno di quegli aerei che fanno volare grandi alla torre, se lì allo stadio l'hanno fatto volare, si è sbattuta con la rete che c'è, poi ha fatto due capitomboli, due capriole ed è caduto sulla macchina e ha fatto danno. Prima era rischio e pericolo tuo, però se a seconda del danno che facevi, metti che ti cadesse un aereo, un elicottero in picchiata, magari ammazzavi pure qualcuno, che ne so, lo prendevi in testa e dovevi pagare il cristiano intero, per buono e per nuovo anche. Hai capito? Invece questi droni leggeri, anche se cade in testa qualcuno, non pesa niente, è come che ti cadesse in testa un quadernetto di scuola, cosa vuoi ti faccia? Il solitico, che poi non è nemmeno vero, perché se che ne so, metti che sei le eliche, girano veloci, sono anche affilate, si avvicina troppo a qualcuno, se gli prendi la palla dell'occhio e l'occhio lo perde già, per dire, per farti un esempio terra-terra. Sì, io mi sono messo a due ragazzi che hanno il camper, un ragazzo e una ragazza che hanno il drone, ovunque vanno fanno i filmati con il drone. Lo fanno andare, li fanno i filmati e poi si riconservano per farli vedere quando arrivano, perché loro vivono in camper già da 5 anni. Sì, ne seguo, su YouTube seguo alcuni, seguivo almeno queste un paio di persone, di coppie. E in base alle località dove vanno si fanno la panoramica col drone, capito? È bellino. Poi ci sono droni, adesso dronetti, che si chiamano selfie drone, piccoli piccoli, della DJI. E tu praticamente cammini e lui ti segue, capito? Come che avessi un operatore in alto, una telecamera, avessi già capito, che ti segue. Puoi farti la panoramica a 360 gradi, cioè gira intorno a te e ti riprende, però cioè, ti tiene sotto, al centro dell'inquadratura, diciamo. Tante cose ci sono già, dipende uno che pazienza ha. E comunque anche se hai tutto in regola, ti rompono sempre le palle, dovunque vai. Se si inventano di sana pianta, ma qua il sindaco ha messo un'ordinanza, poi magari per vedere non è vero, capito? Diciamo è un hobby che attira i rompiglioni, ecco. Vabbè, la gente avrà sempre da dire per tutte le cose, ci sono sempre quelli che non gli va bene la roba. Sì, ma la gente a parte che ha da dire su tutto, su qualsiasi hobby. Non so se sia una specie di non dico gelosia, ma di partito preso, cioè quando vedono qualcuno che si diverte devono rompere le palle, capito? Vabbè. Marco, mi ha fatto piacere, parlando di ubi, in mente una volta che sono andato a pescare e ho preso una lagna, no? E una traccia era abbastanza grande anche. E siccome io c'ho il moschettone con l'occhiello, l'ho staccato l'amo dal moschettone per non toccarla e l'ho buttata in terra. Questo era d'inverno e passano queste due di quelle che raccolgono le conchiglie, cazzo, con tutta la spiaggia che c'era, cazzo, sono passate sotto la canna dove c'era la traccia, ci ha messo il piede e questo che comincia. Me l'avevi raccontato. Deve essere brutto, io non ho mai provato la puntura della traccia, per fortuna non l'ho mai provata, ma dice che hanno visto gente saltare in spiaggia, proprio terribile. E ci vuole il calore, lo sai, devi bagnare il piede nell'acqua più calda possibile, quella che riesci a tollerare, tanto c'è già il dolore della traccia, quindi più calda è meglio fa, perché il veleno si degrada rapidamente con la temperatura. Già, è una cosa che ho letto. Sì, ma si fa la puntura per la tracina, bisogna andare al professore, si fa la puntura. io gli ho detto scusa, io non lo sapevo che lei fosse la figlia di Fantuzzi, con tutta la spiaggia grande che c'è, verrà a passare proprio sotto le canne. Sì, sì, cose già vissute già. Tu lanciavi le canne. Passava, che ne so, un uomo col figlio, col bambinetto di 10 anni o meno, doveva passare quasi sbattersi apposta con la spalla alla canna, e lì c'era da dire, ascolti, ma prenda quella scimmietta e si allontani dalle canne, per favore, no, che lo fanno apposta i bambini, no? E i genitori però non dicono niente, capito? Ho già, sto usando il KPO, il mic KPO messo a metà, distanza 20 cm, com'è? Passabile? Forte, forte, bello, presente, tranquillo, una bella modulazione. Che altro stavo dicendo? Invece che passare dietro le canne, passano davanti a toccare la lenza addirittura. E anche toccare la lenza se ci arrivano, vabbè, se la canna è molto alta non ci arrivano, non riescono a prenderla alla diagonale, però... Gente che sfiorava la canna con la spalla, come dire, questa canna è sul mio percorso, mi dà fastidio, e oia, lascia perdere. E cosa ti volevo dire già, che ieri poi è entrato il primo pomeriggio Daniele Pomponio, c'era anche Luca Del Monte, e con l'ineretto mi ascoltava Daniele, Santiago 9, però vedi, da liscio, due Santiago in meno, lui aveva la propagazione che gli arrivava a 7-8, non era proprio QRM, era propagazione, e quindi da liscio ieri non mi copiava, e oggi per copiarmi meglio 50 watt. Ma io non ho più di lineare, quindi non posso usare nulla, però io ieri l'ho sentito un basso, Daniele. Allora, ieri, guarda, oggi, tra ieri e oggi l'avevo fatta la prova, perché l'avevo sentito di striscio ieri, però non mi copiava con 4 watt. Più che altro c'era, allora, rumore atmosferico ce l'avevo anch'io. C'era propagazione, no, ieri no, propagazione, più che altro era rumore elettrico. Insomma, lui mi arriva a 8, provato con due radio, col 3009 e col HR5005, e arriva a 8. È discreto, è strano, vabbè, no, strano no, vuol dire che è semplicemente più favorevole per me che non per voi. Sì, a me mi arriva basso, a me mi arrivava molto più forte prima. Non lo so che antenna avesse prima, cosa c'è adesso, però prima mi arrivava molto più forte da ieri. Ah, sai perché? Io ero rimasto che lui modulava da via l'Italia o via Rockefeller, non mi ricordo. Io ricordo che modulava da lì, non sapevo che poi avesse usato una radio a IT, un'antenna. E che antenna aveva prima, per curiosità? Non mi pare che avesse l'antenna tipo la tua, da lì, però ce l'aveva in terrazzo. Oh, se gira arrivava meglio con la Energy che con la Game Master, boh, pare strano a me. Cioè, la Game Master comunque è una signora antenna, certo a me non piace quella filosofia di quel cavo in questo tubo di materiale, boh, plastico, quello che è, nylon, quello che è, adesso non mi ricordo. Non mi piace come idea, mi piace l'alluminio, però non è un'antenna che va male. Vabbè, quindi io arrivavo a 9 con 50 watt, quindi con 4 arriverò 7, se non c'è propagazione magari mi copia, capito? Poi oggi avevo il microfono buono, questo qui, non ero col mic normale, potrei ancora alzare, così a manetta, 1, 2, 3, 4, 5, così 20 cm, così lontano tutto il braccio, ma vedo che sale. E poi qua c'è comunque il collo di bottiglia dell'apparato, questo è omologato, quindi non ha la modulazione aperta dentro. Ma io secondo come va me ne prendo un altro marchio di quelli lì, perché vanno bene, e per i gas magari si addice bene, dai. Ma di sera vedo che sta entrando poca gente. Sai cos'è? Oggi era anche bella giornata, cioè chi può, anch'io se avessi potuto, non c'era nemmeno vento stamattina, però non avevo stampato codici QR, capito? Mi devo preparare un po' di roba. Anche a San Francesco è carino usarlo, lo sai, lì c'è il posto macchina, lo fai volare magari proprio non sulla strada, e zona bianca, non hai limitazioni. Certo, non andare, magari uno non va a spiare dentro le villette, se no arriva il pazzo di turno che si sente osservato, capito? Mancio troppe calle, Marco. Non fallo. Gioia. Devi andare a trovare uno spazio libero, anche un prato, oppure andare a Monserrato, dove andavamo io e Luca a fare volare i ridicotti. Ah, proprio al parco di Monserrato andavate? Beh, lì è buono anche perché il terreno è morbido, anche se dovesse cadere non troppo dall'alto è più soffice l'atterraggio, invece se atterri su cemento, strada, è più seccante. Certi si possono rompere anche subito, parte un rotore o chissà cos'altro. Comunque già, no, anche se ci sono le case, lì non è che devi andare a chilometri, cioè il drone deve essere ben visibile dall'occhio nudo, Devi capire qual è la parte anteriore e posteriore, te ne accorgi dalle luci che hanno. Quindi non è che lo puoi far volare a perdita d'occhio, deve essere sempre ben, dice, riconoscibile, mi pare, la parte anteriore e quella posteriore, anche perché quando lo comandi, se c'hai il muso verso di te e decidi di andare a destra, vai a sinistra, se no, capito? Di sedere lo piloti bene, ma se col muso verso di te, sinistra e destra sono invertite e anche avanti e dietro. Io ho perso il contatto radio e ho distrutto una busta dei carabinieri appena comprato, poche ore ce l'avevo, appena comprato, sono andato a provare al quadrato, ho fatto volare troppo in alto, ho perso il contatto radio, se farà da picco. Ehi, sai cos'è già? Se tu mi hai detto che l'avevi comprato quelli più economici, diciamo, dai, se era uno di quelli hanno, il telecomando ha una portata veramente ridicola, veramente limitata, sono fatti per volare a pochi metri, e grosso modo a che distanza ha perso il contatto, per saperlo? Questo era quel pari della luce, aveva superato qui, quel pari della luce che ci sono, mica sono alti, e praticamente non era di quelli economici, l'avevo preso su internet, non era di quelli di cinesi, l'avevo comprato su internet da uno che vende proprio modelli di elicotteri eccetera eccetera, avevo visto la busta dei carabinieri e l'avevo comprato lì. Ah vabbè, quello è bello, quello da quello caro, quello lì devi pagare col sangue direttamente, ti fa il coso, il prelievo con la siringa. Però ha tanta bella roba, tanta bella roba. Io andavo solo a sbavare, come vedevo i prezzi me ne fuggivo. E l'angusta costava, C'aveva praticamente la carrozzeria che era leggerissima, era fatta tipo, non carta, però una cosa leggerissima, ma era così bello come estetica. Sì, anzi mi stupivo, anche certe macchine, certe aerei erano proprio una buccia di, come dire, adesso non so il materiale, l'exiglas plastica, quelle plastiche lì sottili, sono quelle delle confezioni, sai, confezioni di roba in blister, quella roba lì. No, forse è polistirolo fino, tipo un polistirolo rimane. Ah, sì, quell'altro materiale sì. Poi certe fibre di vetro, vabbè, quelle per proprio chi se lo costruisce da zero. Adesso con le stampanti 3D stanno facendo tante cose belle. Se sei bravo ti fai un sacco di scocche, di roba che prima magari non trovavi in commercio. È una figata. Poi già, cosa di qua sempre di quella roba lì. Questi droni ti sono belli perché adesso sono più facilitati, per esempio per decollare c'hai un tasto, per atterrare c'è un tasto, è fatto lui, oppure che so, perde il segnale e torna da solo al punto di partenza, oppure lo vuoi far rientrare e non ne vuoi guidarlo, premi il tasto e lui rientra da solo, però dietro il tuo comando, è un po' di opzioni hanno. No, l'elicottero non è così, no, l'elicottero devi comandarlo tu, e se lo comandi male ti farà picco, devi dargli proprio, farlo atterrare piano piano, gli devi dare la velocità giusta, eccetera. Se tu lo comandi male si scende a picco e si spacca. io quello là, quello bus, ho cercato di frenarlo, non ce l'ho fatta perché come ho preso il contatto ci è sceso a picco, non ce l'ho fatta, ma come a prendere i comandi quando glielo ho dato. E vabbè, c'era tutta la gente che guardava, ho fatto la figuraccia. L'elicottero è più delicato, non so, un'elica lo devi stabilizzare tu. Quello sai cos'è? Più sai una base larga, cioè sai quattro piedini, quattro eliche, lui poi di suo si stabilizza in orizzontale, no? Rimane orizzontale, poi certi per essere più fermi sanno, si chiama il flusso ottico, c'è una telecamerina posta sotto che vede sulla verticale quello che c'è sotto e cerca di rimanere agganciato in quel punto. Oppure ci sono anche quelli col GPS, e se tu li vedi certi sembrano, soprattutto quelli più fatti meglio, i DJI, sembrano appesi in aria con un chiodo, non si muovono, è una cosa impressionante da vedere. E lo so, ma del drone non mi piace l'estetica, ma mi piace più l'elicottero, io... Poi vabbè, Luca è proprio appassionato anche di elicotteri veri, gli ha chiesto di vederlo dentro quando, quando è atterrato, quello che fa pronto soccorso, che fa 118, già l'ho fatto vedere come era dentro. Ne avevo visto una piazza dei segni, rosso, grande, credo che fosse a scoppio, motore a scoppio. C'era anche il pilota dentro, proprio fatto bene, il pilota col casco, guarda, sembrava vero, se tu non... chiaramente lo vedi più piccolo, no, in scala, però era perfettissimo, però quella roba un po' tosta e come prezzi, se si sfascia quello sono dolori . Quello che si è rotto costava mi pare 2000 euro, quello che si è rotto, che si è sbattuto. Figurati, ma quello che ha fatto il danno alla macchina, e poi non si sa come sia finita, no? Non lo so, perché poi mi sa il padrone che andava al cazzetto, ha detto 2000 euro ci ho buttato. Questa frase l'ha detta, non ricordo bene. Il cacchio. Vabbè, se li ha spesi però vuol dire che se li ha spesi per una cosa radiocomandata vuol dire che i soldi ce li ha. Certo, li ha buttati, ma non si impiccherà, ecco, diciamo. E poi vabbè, comunque sì, queste cose le piloti comunque manuale, se vuoi fai tutto tu, decollo, atterraggio, però non cambia nulla, cioè spingi la leva avanti e decolla, la metti giù e va giù, è una cosa relativamente semplice, l'importante è che sia calibrato bene però, cioè deve stare un po' fermo, non deve andarsene tutto di un lato, tutto dall'altro quando decolla, se no lì bisogna fare la calibrazione manuale. Siccome molti droni economici non hanno memoria, la devi fare ogni volta che parti, già lì è seccante. E che altro, non mi ricordo già. Ma tu l'hai già fatto volare, sì? No, io ho provato in casa, ma te l'ho detto, da AliExpress mi pare 12-13 euro, da 13,50 euro massimo. È una cosa, io non so di fabbrica quanto costino. E ho sgombrato un po' questa stanza, l'ho fatto decollare, però sai cosa, c'è troppo poco spazio già di manovra, praticamente. Poi io non ero esperto, io devo cominciare da zero. E sono riuscito a spaccarlo, anzi non proprio spaccarlo io, stava volando in alto, quasi a livello soffitto, gli è mancata l'alimentazione di botto, però credo che la batteria fosse, è come che fosse già mezza esaurita dall'inizio, cioè dovevo fare cicli di carica e scarica per abituare la batteria a lavorare, lì vedevo che lampeggiava, non sapevo, lampeggiavano le luci rapidamente, non sapevo che dovevo farlo atterrare quanto prima, probabilmente la batteria ha ceduto di colpo, è caduto dall'altezza soffitto, si accende ma è rimasto briccato, non lampeggia in eterno, non riceve comandi, non fa nulla, l'ho anche aperto, ho controllato sia i cavetti dei motori non attaccati, delle varie schede, tutto, sembra tutto apparentemente integro, però è andato, si può usare come ricambi, ma ripeto, si è buttato 12 euro, non si è buttato tanti soldi. Beh, c'è quello col GPS, quello più bello, è quello una cinquantina, 54 euro. Certo, ce l'ho chiuso il pacco, non devo ancora aprire. Io l'avevo preso uno piccolino e volavo in casa, solo che ogni tanto mi sbattevo i mobili, erano voci, oi, mi graffi i mobili, non volare con un apparecchio pericoloso. E Marco era piccolino, dai papà fallo volare. Per esempio raccomandano di non usarlo con animali intorno, perché il cane è stuzzicato ad andarlo a mordere, e le eliche sono velocissime e certe sono anche un po' affilate, si può fare male al labbro, agli occhi, insomma bisogna stare attenti a tutto. E il cane è già distinto, come vedrò per il movimento, lo fa che con l'aspirapolvere ha morsicato, figura. La baia la morsica, l'aspirapolvere. Sì, però almeno quello è liscio, cioè non è una cosa con cui si può ferire. Invece quelle cose lì, insomma, bisogna stare un po' attenti. Dipende dal modello poi. Insomma, già, in questo canale stiamo sgomitando per riuscire a parlare dalla gente che c'è. Permesso, questo lì è quando alla piazzetta non c'era più nessuno, c'era uno che stava aprendo per i fondelli, diceva permesso, scusate, permesso, faceva così con le mani, no? Oh, via. E poi cos'altro ti volevo raccontare? Boh, non mi ricordo. Vabbè, comunque quelle prove le abbiamo fatte in radio, quindi già arrivo ai tiri da. Arriverei anche senza QRM o propagazione, arriverei anche liscio, ci mancherebbe. Ma questa antenna che ha Daniele, questa Game Master, quanti metri l'ha messo? Quanto palo ha? Ecco, in poche parole. Quanto è alto il palazzo o la casa, quello che è? Non so nulla, non so manco dove sia Daniele. So che abita Itri, però non so se è andato Luca a piazzarla insieme a lui, non lo so. Perché ha detto che ci dovevano andare per sollevarla, però non so se l'abbia piazzata lui o se si è fatto aiutare. Luca l'ha detto in radio, mi pare l'ha aiutato lui, l'hanno piazzata insieme, eccetera. E poi non so che cavo sia adatto con l'antenna, vabbè, si dice che si debba, come si dice, coso di velocità, coefficiente di velocità, boh, vabbè, non mi ricordo, io non ne ho mai tenuto conto, però non so, le nostre installazioni non sono così critiche da dover seguire anche quella regola. Sai, 0,66, 0,80 e spiccioli, no? Il codice di... non mi viene già, non mi ricordo nemmeno il termine giusto. Mi sa che con l'antenna non sta radiando bene, perché non è normale. Io da qua a Porto Torres arrivavo 9,25, 9,30 a Galvino, sempre con la Game Master. Vabbè, tu hai il mare di fronte lì, e quindi è spettacolare da lì. Ti ricordi cosa ti avevo detto, no? Quando si arrivava in quella discesa lì, si vedeva il mare, poco prima di arrivare a te. No, ma sai cos'è? Magari l'antenna sta funzionando correttamente, sta radiando, però se l'orografia del terreno è sfavorevole, c'è un limite a quello che puoi fare con quell'antenna. Capito? Come andare a Bancali? Dove mi adesso la campagna, lì è un fosso, cioè più di tanto non riesci a fare. Ci puoi mettere anche la 7/8 d'onda della Grazioli, ma di più non puoi fare. Ma è possibile anche che ci sia qualche ostacolo davanti, e magari alzandola riesce a superarlo, capito? Sì, esatto, qualche collina, io non so come sia lì la. Cosa veda la sua antenna, ecco, capito. Vabbè, meno male che lui non ha nemmeno 4 watt, qualcosina in più ce l'ha, quindi a Sassari arriva... Ma a te quanto arrivava ieri? Non mi ricordo, me l'avete detto, però poi... Sai così, ho perso il tempo a cambiare radio e poi eravate andati via tutti. Era rientrato verso le 8:30 Daniele, ma non mi copiava bene. Cioè mi accorgevo che non mi sentiva, io sentivo lui perché c'aveva più watt. E io ero con miseri 4 watt, l'ufficio, ecco. Sentiamo 5 arrivava qua, e la radio era bassa. bassa, proprio la 73. Proprio è basso. No, diciamo qua 8 e la radio era capibilissima, cioè nessun problema. Poi quando ha alzato ha migliorato un po', comunque ha migliorato ulteriormente. Poi stasera in pomeriggio hanno provato in FM, in FM era spettacolare la modulazione, migliore della M. Ecco, infatti l'ho sempre detto, perché la moduliamo in FM? Però vabbè. Noi oramai abbiamo questa abitudine, ci sono dei paesi che non già non hanno ancora M, tipo l'America, la Francia, tutti in FM. Anzi l'FM negli Stati Uniti l'hanno introdotto da poco sugli apparati, capito? Prima l'FM non ce l'avevano, MSSB, e poi hanno visto questa cosa FM, modulazione di frequenza, cos'è? Streganza. Ma diciamo che con lo scorcio chiuso l'FM sembra una telefonata. Esatto, esatto, ma non solo, il rapporto segnale-rumore è migliore. È migliore. Io mi ricordo quello di che modulava da che è entrato poche volte, modulava dalla parte di San Camillo, adesso non mi ricordo, presumo, insomma arrivava basso e la radio si capiva poco, era bassa. Passiamo in FM con gli stessi watt lui, cioè 4 in AM, 4 FM, in FM era una telefonata, in AM lo capivo a malapena, per dire, cioè tutto il rumore di sotto, di fondo, non lo sentivi, aspetta che abbasserisci Vittore, tutto il rumore di fondo che sentivi in AM, la mondezza sotto, in FM non la sentivi. Ho capito, noi siamo fissati con la M, perché sennò molti di voi, per dire, sul 12 c'è una ruota in FM, c'è Galvino, c'è, come si dice, Franco di Sorso, a volte entra anche Tiro Muscolo, e modulano lì. E si sente benissimo, io a volte sono entrato, si sente benissimo. Sì, sì, sul 12 stanno modulando spesso in FM e vanno bene, magari loro hanno modulazioni un po' pompate anche in FM però, che va ben oltre i 2 kHz, 2, quant'è, adesso non mi ricordo la regola, massimo 2,5, ma già 2,5 è molto. Guarda, se io avessi avuto il misuratore di deviazione FM, gli apparati li avrei tarati come fanno gli inglesi, a 2,2 massimo, deviazione massima 2,2 kHz ed è perfetto, senti la voce chiara, naturalmente con mic normale sempre, se avete amplificato magari un po' influisce. Ma l'FM è fatta per essere così, non magari per sparare troppo audio come la M, capito? È diversa, è un'altra filosofia. Eia. Già, io vado a bere. Che ore sono piuttosto? Non è che devi portare il cane, no? Io lo devo portare alle 8, lo porto, ancora 10 minuti e poi vado. Eia. Comunque carine, erano carine tutte quelle cose radiocomandate, anche le barche per l'estate, anche le macchinette, vabbè, poi uno poi cresce e ti ne abbassa la gana, infatti adesso è tutto questo fuoco di paglia fra, dopo che togli l'entusiasmo iniziale non ci sarà più, è giusto il gusto di provare, togliersi il gusto, poi... No, aspetta, prima un tempo, tanto tempo fa, al quadrato, facevano le gare, erano persone grandi che guidavano quelle macchine con i motori ad arco vitilico, praticamente erano persone grandi, cazzo, quelle macchine facevano 120 km orari perché le ho chiesto, mi ha detto se ti prende questa macchina ti frattura, cioè ti prende al piede, infatti c'erano le ruote tutte attorno, le ruote di macchina tutte attorno, per quando si smattevano le ruote, capito? Ma lo sai che potenza c'avevano quelle macchine? E poi le ho visto un'altra volta i punti, ho visto quelle da rally, quelle che facevano il rally, che saltavano, cazzo, bellissime anche quelle. Sì, qualcuno di vista lo conosceva, amico di Stefano, aspetta come si chiamava, vabbè non mi ricordo, Quelle macchinette però, quelle che ho visto io, non era alcol etilico, andavano a nitrometano. Forse come lubrificante, non so, faceva una puzza comunque quella roba lì. Non so se usassero olio di ricino come lubrificante o cosa era. Un rumore notevole, una puzza notevole, si arriva vicino, le dovevi far partire, mi ricordo, con quell'avviatore elettrico. E come partire a strappo, mica, non avevano un motorino d'avviamento o le candele, dovevi partire a strappo. E lì praticamente c'avevi questa pedana piccolina, portatile, con un rullo che girava e ti avviava la ruota, te la faceva girare finché non partiva, non si innescava la combustione interna. Sì, lo so. E mi metteva lo ricordo ancora. Mi facevano il pieno a casa con un mini imbuto, mi facevano il pieno e poi le mettevano in moto davanti a lui. Addirittura li controllavano la carburazione prima di partire, li registravano le carburature. E la manutenzione anche era una rogna già. A volte dovevi smontare quel piccolo motorino, pulire tutto, è un po' una rottura di scatole. Vabbè, d'altronde l'hobby è quello, o ti piace o non ti piace. E quanti anni sono passati? E cos'altro già? Cosa ti volevo dire comunque dei droni, per finirla? Sono considerati per l'ENAC, l'aviazione civile, no? Quell'ente che regolamenta tutto, ENAC, adesso sto facendo un po' di confusione, sono considerati droni delle aeromobili, come che tu stessi pilotando un ultraleggero, un elicottero, un aereo, un vero aereo, e quindi devi sottostare, se vuoi utilizzare l'aria, sottostare a tutte le regolamentazioni delle aeromobili. Se ci pensi sono giocattoli, cioè i classici zero, quelli leggeri, sono giocattoli, magari giocattoli costosi certi, però stanno esagerando tutto all'inverosimile già. Adesso c'è un'altra rogna in arrivo. Siccome stanno facendo la sperimentazione di Amazon che ti consegna i pacchi col drone, c'è una città d'Italia, una zona, dove vogliono introdurre questo U-Space, un'altra limitazione ulteriore, dove tu sei giorni a settimana non potrai assolutamente transitare, perché saranno impegnate per questi test di questi droni di Amazon. Che poi vorrei capire a chi la consegnano la roba, certo non ti bussa il campanello il drone. Potranno consegnare nel giardino di villette, roba del genere, cioè te lo mollano lì il pacco, mi ecco. Sì, e poi stavamo dicendo dei pesi, e come fanno a alzare questi pesi droni? Ma quelli sono droni potenti già, cioè non dronetti così per giocare, per uso dilettantistico, sono droni da lavoro. Tu pensa che in Cina ho visto un drone, un mostro, un drone grande quanto un pullman. C'è una cosa mostruosa, grande quanto un elicottero, che sollevava le travi d'acciaio in zone dove neanche i camion riuscivano a portartele. Sai, delle insenature, delle fosse tra dei solchi, tra le montagne, lì, tutto col drone facevano, radiocomandato. Ma il grande detto, droni grandi quanto pullman, sollevando travi d'acciaio, impressionante. Lì naturalmente sono droni adatti a portare, è come quelli che gli ucraini usavano per portare i proiettili d'artiglieria innescati, capito? In base alla potenza dei motori, la batteria, quello che è, poi non so se ci siano motori a scoppio anche, quello non lo so, dovrei vedere. Io invece sto seguendo un cinese che è nato in Italia, da genitori cinesi, e se ne è ritornato in Cina e fa i filmati nelle cose dove va, nelle città dove va. Ha filmato questa città dove c'è la metropolitana che passa dentro un palazzo. Praticamente tra un piano e l'altro c'è lo spazio per passare la metropolitana. Poi tu sai, questo palazzo che è altissimo, non capisci mai quando sei al piano terra, perché c'è sempre la strada. È una cosa allucinante qua, non riesco a spiegartelo, solo da vedere. Sì, ci sono cose allucinanti, Cina, Giappone, che qua, tu immagina, negli anni 80, la mia insegnante di italiano delle medie, sto parlando di primi anni 80, 81, 82, lei era stata in Giappone per un viaggio dove c'erano questi treni a lievitazione magnetica, cioè tu guardavi sotto e non toccava terra, di pochi centimetri, ma vedevi che era sospeso in un campo magnetico che non avevi punti di contatto, come dire, punti di attrito, capito? Cioè, roba da fantascienza per noi, che noi abbiamo ancora i diesel elettrici, abbiamo quei carri degli anni 60, mamma mia. Allora, la prima domanda che mi è venuta a farle è: ma non crea vibrazioni quando passa? E lui mi ha detto no, parlava benissimo l'italiano, innanzitutto perché lui è nato in Italia, ha vissuto in Italia per tanti anni. Ha detto che le vibrazioni non le crea perché non ha, come si dice, una ferrovia. E praticamente cammina su un tubo, cazzo, una cosa strana, deve essere quel tipo che stai dicendo tu, quel tipo di cose lì, con le cose magnetiche, su questo tubo che non crea vibrazioni. Però sai cos'è già? Quando tu fai entrare comunque un mezzo in un tunnel, no, tra due palazzi, come hai descritto tu, in un palazzo, questo, lo spostamento d'aria per forza più di una vibrazione lo deve fare. Stai spostando una massa d'aria all'interno di un tunnel, comunque di un condotto stretto, quindi i vetri sicuramente tremano un po'. Certo, ho preso ogni accorgimento per essere meno disturbante possibile, però vabbè. Poi è entrato dentro questo palazzo, tu dovevi vedere questo palazzo, che meraviglia, brillava tutto, una cosa buona, una meraviglia, sembrava di essere un paradiso. Stai parlando sempre di Cina? Sì, sempre di Cina, sempre di questo cinese che fa i filmati, e io praticamente lo sto seguendo, ogni volta la mattina mi manda Cinciunci, come si chiama, sta facendo il filmato, vai a vederlo, io vado e lo trovo, ogni volta va in una zona diversa, poi ci ha fatto vedere tutto il palazzo, c'era la fila per vedere il palazzo, facevano ore di fila per vedere il palazzo dentro. Sì, guarda, la Cina è un paese in piena esplosione, come dire, tecnologica, tutto, fanno cose folli, terrazze pensili, cioè di giardini in cima a palazzi altissimi, oppure cose tutte in vetro, è spettacolare, certe cose andrebbero proprio viste, senza farsi pregiudizi che stanno andando in Cina, che stanno andando ai comunisti, che quelli ormai sono più capitalisti degli americani, altro che comunisti. Ti costruiscono, che ne so, un ponte, che ne so, il ponte sullo stretto, cioè loro per fare l'equivalente ci mettono pochi giorni, vabbè, qualche settimana, da noi se ne parla da 50 anni e poi non si fa mai, o se si metteranno altri 50 anni a costruirlo tutto, per carità. Tecnologicamente sono avanti anni luce. Sì, sono, guarda, tu dovevi vedere questo palazzo, era una meraviglia da vedere dentro, poi non capivi che sembravi in una città, cazzo, ti sto dicendo, 60 piani c'aveva questo palazzo. Poi li hai mai visti quei pontili? Sono come dei camminamenti in alto, tipo che uniscono due palazzi o roba del genere, ed è di vetro sotto, è trasparente. Uno cammina e vede il vuoto sotto, e certi di pigliare, cominciano ad aggrapparsi alle ringhiere, hanno un terrore. Qua per me sarebbe una cosa folle, non potrei attraversarlo quel ponte. Se tu cammini su questo vetro spesso, bello trasparentissimo, e vedi il vuoto sotto di te, centinaia di metri di vuoto, è una cosa impressionante. E se si spacca il petto ti va il giosso, va, no, no, io non riuscirei perché soffro di vertigini. No, ma io sto parlando vetro, spesso 10 o 20 centimetri, non vetro di finestra, no. Vetri, cioè che non li spacchi manco col bazooka. No, io non ce la farei, mi farebbe un infarto, penso. Io invece l'ho visto, questi qui che camminavano su questo ponte, che ballava però il ponte, e che attraversava il monte, un monte da una parte all'altra, ma era lontano lì, era roba di chilometri, e questa qua si è bloccata a un certo punto, dovevi camminare su queste travi di cosa, di legno, e in mezzo c'era il monte, se mettevi male il piede ti paravi giù. Ma avranno avuto dei sistemi di sicurezza, cioè o era un funambolo che lo faceva per lavoro, ma non puoi mandare i poveri cristi a cadere di sotto, magari c'erano delle cinture di sicurezza, delle cinghie, voglio dire, dai, già capito. No, c'erano praticamente, questa qua si è fermata, non voleva più andare avanti, si è caricata sotto, non ce la faceva più andare avanti, voleva tornare indietro, tutti dicevano dai, vieni. Cercavano di tirarlo a casa, invece non ci avevano corde, ballava, il fatto che ballava questa cosa, come tu passavi, non dolava, capito? Mamma mia, ma cos'era quei ponti tibetani fatti di corde per caso? Con le corde elastiche? Per carità di Dio, no, non li vogliamo neanche vedere. Esatto, proprio quelli. Diciamo che non aveva una piattaforma unica, c'aveva proprio dei legni che erano attaccati con la corda uno con l'altro, collegati con la corda. Io dico, se vuoi mai rubare chi mi si parava giusto, e poi le corde per tenerti ai fianchi, però in mezzo alla corda c'era il vuoto, se tu sbagliavi poco a poco ti parava giusto. Però così da suicidio, vabbè. No, io più sto attaccato al suolo meglio è, non potrei mai fare il paracadutista, che immagini, preferirei precipitare con l'aereo, pur di stare dentro, che non lanciarmi col paracadute. Ma se mia figlia cosa mi ha fatto, e mi ha detto, papà aspetta che ti mando una cosa, mi ha mandato un filmato, e lei era sopra l'aereo, e praticamente mi ha fatto vedere che si è lanciata col paracadute dall'aereo, mi sono cagato sotto, guarda. Ho pensato subito a Taricone quando me l'ha... si è lanciata col paracadute, gliel'hanno fatto come regalo gli amici al compleanno. Pietro Taricone, poveraccio, guarda. E lì purtroppo il paracadute si apre sempre, però la volta che non si apre è fatta. Non voglio nemmeno pensare cosa ti passa per la testa mentre sai che stai per morire, che per arrivare a impattare sul suolo, guarda. Vabbè, c'era l'istruttore a fianco, che a sua volta aveva il paracadute, se proprio andava male il suo, si attaccava a quello e c'era l'istruttore, hanno volato insieme, capito? Perché mica la fa volare insieme da sola la prima volta. Ad Arbatax mi pare che si è calata sulla spiaggia. Oh, Arbatax, dove c'è la cartiera? Va al mare, capito, la zona del mare. Qua sai cosa può succedere lì? Allora, se sei in un gruppo di gente che si lancia col paracadute e non ti si apre, l'ultima speranza è che in tempo utile, perché che uno vada in picchiata, sai, si mettono in posizione di picchiata, ti raggiunga, ti aggrappi a lui e apri il paracadute, c'è da sperare che il paracadute appunto regga, rallenti il peso di due persone assieme, ma di solito lo fa, però deve essere gente esperta, cioè per fare una cosa del genere, insomma lui gli è andata male, da, ma nemmeno quello d'emergenza si è aperto, così è. Quale? Quello di Taricone? Penso proprio di no, perché si fa da picco e l'aveva fatto già un altro bel po' di volte, ce l'aveva come passione, lo faceva come passione, e con paracadute ce l'ha lanciato diverse volte. Lo so, lì può essere che si annodano le corde, non saprei, che è troppo inamidato, che non si apre bene, non prende il flusso d'aria che lo fa aprire. E lì succede una volta, appunto, non ti puoi, non lo puoi raccontare in giro. Vabbè, certo che deve essere, cioè, un terrore subire una pioniera per una morte in faccia e non si apre il paracadute. Loro praticamente hanno proprio allargato le gambe, le braccia, hanno volato, come volare, la stessa cosa. Io ho visto tutto il filmato, perché c'era la telecamera mia figlia, capito? E ha fatto tutto il filmato, le ha fatto l'istruttore lì, e lei l'ha fatta l'istruttore. E praticamente si vede lei praticamente con le braccia e le gambe allargate, sembra che stia volando. Ah no, prima non avevo agganciato, quindi lì ha provato il lancio col paracadute, mamma mia, c'è roba che posso fare io, mamma mia, no. Quello è un vulcano di energia, Marco, le prova tutte, gli manca solo la corda con l'elastica da buttarsi dal ponte con la corda elastica, le ha provate tutte, guarda che è una cosa che è tremenda, ecco, ma no, Marco, chi te lo fa fare, papà, ma se non le provi le cose della vita... non saprei mai come sono, dice che era una figata volare. Vabbè, però non tutti sono adatti, c'è gente che si sente male anche usando la ruota panoramica della giostra, che gli viene un mezzo infarto, no. O se no la fionda, l'hai vista la, cioè non il bungee jumping, quella della giostra, la fionda, praticamente ti tira indietro questa capsula dove sei tu e poi ti lancia in aria, no? Poi si è legato sempre alla struttura, ma per carità di Dio, già il sistema mio cardiocircolatorio non reggerebbe. Infatti non è che siano cose belle, io ho fatto il daga-daga, ho fatto la ballerina, però sempre per vincere queste paure ho, capito, perché io soffro di vertigine, quindi per vincere le paure l'ho fatto. La ballerina appunto qua, se no c'è quella che ti porta indietro, che va avanti e indietro a tutta velocità, ui mamma mia, che non mi ricordo come si chiama, daga daga forse quello. Vabbè, comunque le ho provate tutte, e anche le montagne russe, ho provato il tappeto volante che è tremendo, il tappeto volante è la cosa che mi ha paurito di più. Quello di Alghero, no, lì sono andato, ti dirò, proprio quello non mi ha coricato manco il pelo, stranamente, quello che rimane orizzontale però poi oscilla sempre più in alto, poi fa il giro completo, però vedi, lì sei in orizzontale almeno, sei sempre su una piattaforma orizzontale, ma la roba dove c'è il capovolgimento tipo la fionda, quella roba lì, no, quella mi prende male, il bungee jumping dove rimane a testa in giù, no. Una cosa è essere stabile, magari andare in alto, scendere a picco, ma essere su una piattaforma stabile, capito? Che rimani orizzontale, non a capingiosso, ecco. Quello che dà fastidio. Quella non mi ha croccato il pelo, eravamo andati 15 anni fa. Invece a qualcuno l'ha preso male, a qualcuno gli è venuto un po' di nausea, che era con me. Le montagne russe fatele. No, ma anche ti dico perché, perché le nostre, quelle che vedi a Sassari fanno ridere i polli. Fai le montagne russe americane, hai visto i parchi di divertimenti? Quelle sono spaventose già, spaventose. Sale non so a quanti metri, poi scende a picco, poi risale, poi fai il giro completo che ti mette a testa in giù, ecco, quello mi disturba parecchio, quello sì. Lì mi sentirei male o mi verrebbe, ripeto, sempre l'infarto lì in atto, no, in agguato voglio dire. Le nostre fanno ridere già, ma credo di non essere comunque mai andato, non ho simpatia per queste cose, cosa ne so, si sfascia il carrello, ci si dritto, Sì, sì, a Piazzale Segni e ti schianti al centro del piazzale. Io una volta, quella che chiamano Calcio in Croce, la presente, quella che c'è sui giurini che ti lanciano per prendere la bandierina. Sì, sì, sì, sì, no, no, lì non mi sembrava, sì, metti che si rompa quella catenella che c'è, sai, dopo 40 anni di funzionamento c'è si dritto, no, no. Si è stancato, una di quelle è caduta una ragazza, ce l'ha portata in ambulanza d'urgenza, e quando chirurgia la giostra che andavo lì a spostare il lato scontro, eccetera, mi dava qualche cosa e l'aiutavo. E si è staccata proprio da matterla, però allora si chiamava Cosca Russi, mi pare. Di anni fa si metteva vicino a casa dove adesso c'era il numero 4 e lì c'era staccato il seggiolino e questa ragazza ce l'avevano portata in ambulanza, ma ha volato, però quindi era un lavoro che ha fatto. Sì, sì, potenzialmente letale, cioè se atterri di testa, di nucca ti sei, vai dal creatore. E vabbè, d'altronde, ecco, si rischia anche di entrare nella doccia. L'altro giorno stavo per pigliare una scivolata, meno male che io mi aggrappo sempre ai tinti bene, no? Con le maniglie fissate al muro, se no certe strampate nella doccia ho rischiato. Io non mi faccio più il male, mi faccio solo la doccia, perché una volta ho annaspato 2 o 3 volte, ho sbattuto prima la schiena al bordo della vasca e poi sono caduto a testa a terra e sono svenuto ed ero solo. Quindi sì, quando mi sono ripreso, poi avevo mal di testa, mi faceva male il collo, la spalla, cazzo, non me ne ho fatto più di. A me piace farmi il bagno con la doccia, mi piace stare a muro proprio. Non me ne ho più fatto per quello, adesso mi voglio prendere quelle maniglie che vedono che si attaccano, a ventosa, però non so se siano resistenti al punto di portarmi su. Quello non lo so, io l'ho vista in televisione o su internet, però naturalmente devi avere le mattonelle più grandi della ventosa, perché se becchi la, come si chiama, la fuga, no, il solco tra la mattonella e l'altra, lì dove c'è quel cemento, già hai capito, rischia di non fare bene presa e se entra aria piano piano lì. Già capito, insomma, la ventosa deve stare all'interno di una mattonella per prendere bene, e se no c'è uno spiffero e non fa l'effetto ventosa, capito? Invece qua nel bagno c'erano sempre stati questi tienti bene, come vuoi chiamare, avvitati proprio nel muro, no? Così come entri esci ti puoi aggrappare lì, però certo se cadi a peso morto, secondo me ne esce tutto, si stacca anche dal muro. Avranno avuto viti e tassellini, però sono vetusti qua. Però non mi voglio appendere per fare la prova. Tu hai detto addirittura che avresti avuto qualcosa per sollevarti in caso di difficoltà. Non lo so se quelle ventose ce la fanno, perché una cosa è fare trazione verticale, non sulla ventosa, una cosa se fai trazione di lato e lì potrebbe non reggere, dipende dalla qualità della ventosa già, della maniglia anche in plastica che c'è dove ti aggrappi, perché magari tu, che ne so, stai cadendo, ti aggrappi di peso, si spacca la maniglia e uno si fa male il doppio. Tanto sono cinesate, mi lo so già, a meno che non trovi prodotti molto costosi, sono cinesate, capito? E adesso tutto quello si fa in Cina. Tu pensa che praticamente un'amica mia ha toccato una macchina cinese, una di quei fuoristrada cinesi, gli ha appena rotto il faralino di dietro, ma proprio appena un buchettino piccolo. Per cambiare ci vogliono 450 euro. 450 euro? Un fanalino che non si va in buco, costa così. L'ho guardato su internet, davanti a me, 443 euro, una cosa del genere. Più la manodopera. Le conviene fare l'assicurazione, quello non voleva comprare questo fanalino e poi dico lui, ma le conviene fare l'assicurazione, ma sta scherzando, non so quanto costa, guardi, te l'ho fatto vedere al computer il carrozziere. Certe cose costano occhio la testa. sì, non è questione che gli dai, che ne so, gli rompi, che ne so, uno specchietto, gli dai 20 euro e se lo compra. A seconda dello specchietto c'è la parte elettrica anche dentro, certi non so se abbiano addirittura l'anti... la freccia incorporata, ecco, certi, oppure l'antiappannamento dello specchietto, roba, insomma, certi specchietti possono costare un occhio della testa, e quindi è meglio andare di assicurazione. Certo, poi vai in malus e te l'aumentano, però immagina dover pagare il pezzo di tasca, non so cosa sia peggio, perché gli assicuratori ne approfittano molto. No, ma gli altri che l'hanno aumentato sono 100 euro l'assicurazione, e quello dell'assicurazione te ne conviene fare l'assicurazione, non le conviene pagare il prezzo, costa un sacco di soldi, sì che sono 100 euro che le può dare, ma quando supera le 100 euro conviene fare l'assicurazione. Sai cos'è, però 100 euro magari, che cosa, semestrale o annuale, perché poi rimane malus per anche gli anni, 2 o 3 anni successivi, impare, non so se duri 3 anni il malus, e praticamente continui a pagare, e metti che siano 100 quest'anno, 100 l'altro anno, oppure 100 semestrale, e sono 200 all'anno, poi l'altro anno lo stesso, alla fine è come che avessi pagato di tasca lo specchietto. O il pezzo che era, quello nel fanalino in quel caso, capito? Cioè, e le assicurazioni se ne approfittano. Uff. Adesso anche, hai visto questi trespoli, come chiamo io, come si chiamano? Questi elettrici, monopattini, anche di assicurazione, casco, targhino, tanto vale tenersi lo scooter, dico, per la città. Io non voglio sentire quelli che affittano i monopattini, adesso che devono fare l'assicurazione a tutti i monopattini, dare i caschi, non li conviene più, chiudono tutti. Guarda, avevo letto un messaggio non so dove, e un'azienda di queste ha detto, sì, noi chiudiamo, vabbè, fate assicurazione, casco, tutto, la gente non ne vorrà più e chiudiamo. Ma anche per altre cose già, le leggi che cambiano da un giorno all'altro, per esempio io non voglio sempre stare a girare il coltello nella piaga, ma dopo che hanno fatto aprire questi negozi di cannabis light, no? Che non fa niente, è come fumare camomilla, il CBD poi non fa niente, è una presa per il culo, il CBD dicono che calma, non fa assolutamente niente, a meno che tu non sia un tipo sensibile, no? Legalissima, vai nel negozietto, hanno fatto aprire imprese a magari gente giovane, fare piantagioni di cannabis innocua, è arrivato quel beota di Salvini, che lui la pensa così, e dopo anni di investimenti, di negozi aperti, con la sua legge o decreto legge o cos'è, sta a far chiudere tutte queste imprese, e quindi vedrai migliaia di persone di nuovo a spasso, che hanno perso il lavoro dopo pochi anni, perché oggi la penso così, oggi ti faccio aprire, domani mi girano le scatole e ti faccio chiudere, capito? Vabbè, ma grazie che si è fatto tardi, ci sentiamo, a Salvini già le fanno la pelle, vedrai, si accumulano troppi casini, già ne stanno cento di colui su internet. E lui è troppo inquadrato, cioè... vabbè, già, è un discorso, sì, è troppo inquadrato, sempre, la pensa così, però il danno economico che fa, poi questi pagavano le tasse, questi dei negozietti di questo cannabis light, che poi non serve a niente a dirla tutta, però c'è chi lo vuole, la Roma, non so come funzioni. E niente, adesso andranno a spasso, chiuderanno tutto, chiuderanno i negozi, e vabbè, contento lui. Sì, Salvini come apre bocca o come firma roba fa danno, quindi è meglio che non faccia più niente, guarda. Ok, ciao già, buona proseguimento di serata, buon giro col cane, e ci sentiamo quando capita, ciao. Ciao Marco, grazie per il questione, ci sentiamo, là, buona serata.